L'omicidio di Valerio Verbano. Buongiorno. Ciao, ciao a tutti e a tutte. Allora, un altro anno in cui ci ritroveremo sotto la lapide di Valerio Verbano, a portare un fiore a Valerio Verbano a partire dalle ore 16. Questo è il primo appuntamento di questo pomeriggio. Sì. Dici un po' gli altri e come, insomma, arriveremo poi al corteo. Sì, quest'anno c'è stato un lungo countdown di iniziative in occasione dell'anniversario della morte di Valerio Verbano. E ovviamente stavamo anche sull'onda della grande partecipazione al grande evento del trentennale che facemmo lo scorso anno con il grande concerto a Piazza Sempione, però abbiamo visto che in questi anni, insomma, si è riattivata tutta un'attenzione, una partecipazione attorno a questo evento che va ben al di là della doverosa memoria, il ricordo dell'esperienza, della lotta, insomma, di Valerio. E quindi ci sono state diverse presentazioni in centri sociali, associazioni di zona, e una esplosione di produzione letteraria attorno a Valerio Verbano, un libro di Marco Capoccetti e di Valerio Lazzaretti. E arriviamo ad oggi praticamente con l'appuntamento davanti alla lapide alle 16 per poi il corteo che partirà diciamo alle 17, poi sarà insomma forse un poco più tardi. E per concludersi alla palestra popolare Valerio Verbano, dove si terrà uno spettacolo quest'anno incentrato su musica e teatro. E avremo uno spettacolo composto sia da militantari a salti frontali con attrice contro, e poi subito dopo, insomma, lo spettacolo di Ulderico Pesce. E questo per far sì che anche quest'anno attorno, insomma, all'evento politico, alla produzione letteraria e assimo di nuovo diciamo una parte culturale che dia anche l'idea, insomma, a livello di partecipazione, di grande attenzione di quello che per noi, non solo per noi, per tutta la città è diventato, insomma, il ricordo di Valerio, una cosa composta, articolata, fatta di iniziative dentro le scuole. Tra l'altro l'ultima iniziativa attorno a questo anniversario sarà il 25 febbraio, dove dopo tanti anni siamo riusciti, attraverso il contatto con gli studenti della scuola e il consiglio d'istituto, e si apporrà una targa in memoria appunto di Valerio nella scuola dove Valerio ha vissuto i suoi anni. Va bene, quindi noi ricordiamo, insomma, l'appuntamento a partire dalle 16 sotto a via Monte Bianco e poi per il corteo, insomma, che si svolgerà per le vie di Monte Sagro Valmelaina per poi terminare davanti alla palestra popolare. Assolutamente. Ci sarà anche un passaggio, ovviamente quest'anno è un po' cambiato il percorso proprio per farlo finire in palestra dove si terrà lo spettacolo, e ci sarà un passaggio a poche centinaia di metri anche all'ultima occupazione socioabitativa che è stata promossa, insomma, in questo territorio, quindi un altro pezzo che si aggiunge a una memoria che si fa sempre più, insomma, pratica politica e pratica sociale, insomma, questo per un altro pezzo in omaggio di Valerio. Va benissimo, noi ti ringraziamo e